L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Tredicesima puntata. Il duello per Durlindana. Lettura poetica di Arnoldo Foà. Narratore Gianni Bonagura. Quando tra maomettani e cristiani le operazioni militari ristagnano, gli opposti eserciti si dimenticano volentieri della guerra. Il disinteresse cavalleresco impronta di sé ogni azione e i campioni di Carlo e d'Agramante fanno a gara nello scambiarsi gesti di cortesia. Ma nel campo cristiano non ha mai tregua la contesa tra la casa di Chiaramonte e la casa di Maganza. Il fatto è che sui maganzesi non c'è da sbagliarsi. Chi appartiene a quella famiglia è un mendace e un traditore. Ben lo sa Bradamante, che aveva un vecchio conto in sospeso con Pinabello, finalmente saldato con la morte del reo. Ma il malcapitato Zerbino, principe di Scozia, che si trovava per caso accanto al cadavere, viene accusato d'essere lui l'uccisore di Pinabello e condannato a morte. Per fortuna passa di lì Orlando, che viaggia insieme all'ultima fanciulla che gli è capitato di salvare, Isabella, principessa di Galizia, caduta in mano di una banda di briganti mentre stava raggiungendo il suo innamorato, che era appunto Zerbino di Scozia. Orlando non sa nulla di questa circostanza, ma apprende che un cavaliere sta per essere condannato a morte per volere dei maganzesi, e ciò basta a renderlo sicuro che è innocente. Non c'è che lasciar fare a Orlando, dunque. Poi che l'altro mattin la bella aurora, l'aer serenfe bianco e rosso e giallo, tutto il popol gridando mora, mora, vien per punir Zerbin del non suo fallo. Lo sciocco vulgo l'accompagna fuora, senza ordine chi a piede e chi a cavallo, e il cavalier di Scozia a capo chino ne vien legato in su un piccol ronzino. Ma Dio, che spesso gli innocenti aiuta, ne lascia mai chi in sua bontà si fida, tal difesa gli avea già provveduta che non v'è dubbio più ch'oggi succida. Quivi Orlando arrivò, la cui venuta alla via del suo scampo gli fu guida. Orlando giù nel pian vide la gente che traea a morte il cavalier dolente. Era con lui quella fanciulla, quella che ritrovò nella selvaggia grotta del re Galego la figlia Isabella, in poter già de malandrin condotta, poiché lasciato avea nella procella del truculento mar la nave rotta, quella che più vicino al core avea questo Zerbin che l'alma onde vivea. Orlando se l'avea fatta compagna, poiché della caverna la riscosse. Quando costei li vide alla campagna, domandò Orlando chi la turba fosse. «Non so», disse egli, e poi sulla montagna la sciolla, e verso il pian ratto si mosse. Guardò Zerbino, e dalla vista prima lo giudicò baron di molta stima. E fattosi egli appresso, domandollo per che cagione e dove il mene impreso. Levò il dolente cavaliero il collo, e meglio avendo il paladino inteso, rispose il vero, e così ben narrollo che meritò dal conte esser difeso. Bene avea il conte alle parole scorto che era innocente e che moriva a torto. E poi che intese che commesso questo era dal conte Anselmo d'Altariva, fu certo che era torto manifesto, ch'altro da quel fellon mai non deriva. Ed oltre a ciò, l'uno era all'altro infesto per l'antiquissimo odio che bolliva tra il sangue di Maganza e di Chiarmonte, e tra loro eran morti e danni e tonte. «Slegate il cavalier!» gridò. «Canaglia!» il conte a Masnadier. «O ch'io v'uccido!» «Chi è costui che si gran colpi taglia?» rispose un che parer volle il più fido. «Se di cera noi fussimo o di paglia e di fuoco egli, assai fora quel grido!» E venne contro il paladin di Francia. Orlando contra lui chinò la lancia. la lucente armatura il maganzese che levata la notte avea a Zerbino e postasele indosso non difese contro l'aspro incontrar del paladino. Sopra la destra guancia il ferro prese, l'elmo non passò già perché era fino, ma tanto fu della percossa il crollo che la vita gli tolse e roppe il collo. Tutti in un corso, senza tor di resta la lancia, passò un altro in mezzo al petto. Qui vi lasciolla, e la mano ebbe presta a Durindana, e nel drappel più stretto, a chi fece due parti della testa, a chi levò dal busto il capo netto. Farò la gola a molti, e in un momento n'uccise e messe in rotta più di 100. Più del terzo n'ha morto, e il resto caccia, e taglia, e fende, e fiere, e fora, e tronca, chi lo scudo e chi l'elmo che non paccia, e chi lascia lo spiedo e chi la ronca, chi a lungo, chi attraverso il cammin spaccia, altri s'appiatta in bosco, altri in spelonca, orlando di pietà, questo dì privo, a suo poter non può lasciarne un vivo. Di 120, che Turpin sottrasse il conto, 80 ne periro almeno. Orlando finalmente si ritrasse, dove a Zerbin tremava il cor nel seno. S'al ritornar d'Orlando s'allegrasse, non si potria contare in versi a pieno, se gli saria per onorar prostrato. Ma si trovò sopra il ronzin legato. Mentre Orlando, poi che lo disciolse, l'aiutava a ripor l'arme sue intorno, ch'al capitan della sbirraglia tolse, che per suo mal se n'era fatto adorno, Zerbino gli occhi ad Isabella volse, che sopra il colle aveva fatto soggiorno, e poi che della pugna vide il fine, portò le sue bellezze più vicine. Quando apparir Zerbin si vide appresso, la donna che da lui fu amata tanto, la bella donna che per falso messo credea sommersa e n'ha più volte pianto, come un ghiaccio nel petto gli sia messo, sente dentro a gelarsi e triema alquanto. Ma tosto il freddo manca, et in quel loco tutto s'avampa d'amoroso fuoco. Di non tosto abbracciarla lo ritiene la riverenza del signor d'Anglante, perché si pensa, e senza dubbio tiene, Orlando sia della donzella amante. Così cadendo va di pene in pene, e poco dura il gaudio che ebbe innante. Il vederla d'altrui peggio sopporta che non fe quando udì che l'era morta. E molto più gli duol che sia in podesta del cavaliero a cui cotanto debbe, perché volerla lui levar né onesta né forse impresa facile sarebbe. Nessun altro da sé lassar con questa preda partir senza rumor vorrebbe, ma verso il conte il suo debito chiede che se lo lasci por sul collo il piede. Giunsero taciturni ad una fonte, dove smontaro e fer qualche dimora. Trassesi l'elmo il travagliato conte, e da Zerbin lo fece trarre ancora. Vede la donna il suo amatore in fronte, e di subito gaudio si scolora, poi torna come fiore umido suole dopo gran pioggia all'apparir del sole, e senza indugio e senza altro rispetto corre al suo caro amante e il collo abbraccia, e non può trar parola fuor del petto, ma di lacrime il sen bagna e la faccia. Orlando, attento all'amoroso affetto, senza che più chiarezza se gli faccia, vide a tutti gli indizi manifesto ch'altri esser che Zerbin non potea questo. Come la voce aver poté Isabella, non bene asciutta ancor l'umida guancia, sol della molta cortesia favella che l'avea usata il paladin di Francia. Zerbino, che tenea questa donzella con la sua vita pare a una bilancia, si getta a piede il conte, e quello adora come a chi gli ha due vite date a un'ora. Molti ringraziamenti e molte offerte erano per seguir tra i cavalieri, se non udian sonar le vie coperte dagli arbori di frondi oscuri e neri. Presti alle teste lor che erano scoperte posero gli elmi e presero i destrieri, ed ecco un cavaliero e una donzella lor sopravvien, capena erano in sella. Mandricardo di Tartaria stava cercando due persone per tutta la Francia. Una era il cavaliere dalla sopravveste nera, per vendicare Alzirdo e Manilardo. L'altra era Orlando, per vendicare il proprio padre Agricane e ritornare in possesso della spada d'Urlindana. Quando apprende che i due sono una sola persona, cioè colui che ha di fronte, è doppiamente contento di battersi a duello. Dato che Durlindana è l'oggetto della contesa, Orlando, con gran gesto di cortesia, non vuole impugnarla nel duello, ma la pende a un albero. Le lance vanno in pezzi al primo scontro. I cavalieri restano con due pezzi di pertica in mano, come due contadini in lite per un diritto di irrigazione o per il confine di un prato. Buttano via anche quei tronconi e a mani nude, d'insella dei loro cavalli, finiscono per azzuffarsi in una lotta corpo a corpo. Ogni duello ha la sua particolarità. Questo è il duello dei finimenti allacciati male. Mandricardo ghermisce Orlando al petto e cerca di strapparlo dalla sella. Naturalmente, con le mani occupate, non può continuare a reggere la briglia. Orlando, astuto, pur nella brutta posizione in cui si trova, divincolandosi trova il modo di dare un colpettino alla cavezza del cavallo avversario e far cascare in terra cavezza, briglia e morso. Intanto, con tutto che si tenga stretto in arcioni, finisce per essere sollevato dalle braccia di ferro di Mandricardo con sella, staffe e sottopancia. Il sottopancia si strappa. Orlando crolla in terra ai piedi del suo brigliadoro. Ma in quel momento il cavallo di Mandricardo, che non si sente più il morso in bocca, parte in una corsa folle. Orlando è al suolo, ma l'avversario è sparito, in sella al suo destriero sfrenato. Era questo guerriere, quel Mandricardo, che dietro Orlando in fretta si condusse per vendicare Alzirdo e Manilardo che il paladin con gran valor percusse. Quantunque poi lo seguitò più tardo che Doralice in suo poter ridusse, la quale avea con un troncon di cerro tolta a 100 guerrieri carchi di ferro. Non sapea il Saracin però che questo che gli seguia fosse il signor d'Anglante. Ben avea indizio e segno manifesto che esser dovea gran cavaliero errante. A lui mirò, più che a Zerbino, e presto gli andò con gli occhi dal capo alle piante, e i dati contrassegni ritrovando, disse: «Tu sei colui ch'io vo cercando. Sono mai 10 giorni, gli soggiunse, che di cercar non lascio i tuoi vestigi. Tanto la fama stimolommi e punse che di te venne al campo di Parigi. Quando a fatica un vivo sol vi giunse di 1000 che mandasti ai regni stigi, e la strage contò che da te venne sopra i Norizi e quei di Tremisenne. Non fui, come lo seppi, a seguir lento e per vederti e per provarti appresso, e perché mi informai del guarnimento c'hai sopra l'arme, io so che tu sei desso. E se non l'avessi anco, e che fra 100 per celarti da me ti fossi messo, il tuo fiero sembiante mi faria chiaramente veder che tu quel sia». «Non si può», gli rispose Orlando, «dire che cavalier non sii d'alto valore, però che sì magnanimo desire non mi credo albergasse in umil core. Se il volermi veder ti fa venire, vo che mi veggi dentro come fuore. Mi leverò questo elmo dalle tempie a ciò che appunto il tuo desire adempie. Ma poi che ben m'avrai veduto in faccia, all'altro desiderio ancora attendi. Resta ch'alla cagion tu satisfaccia che fa che dietro questa via mi prendi, che veggi se il valor mio si confaccia a quel sembiante fier che si commendi». «Orsù», disse il pagano, «al rimanente, ch'al primo ho satisfatto interamente». Il conte, tuttavia, dal capo al piede va cercando il pagan tutto con gli occhi. Mira ambi i fianchi, indi l'arcion, né vede pender né qua né là mazze né stocchi. Gli domanda di carme si provvede, s'avvien che con la lancia in fallo tocchi. Rispose quel: «Non ne pigliar tu cura, così a molt'altri ho ancor fatto paura. Ho sacramento di non cinger spada finch'io non tolgo Durlindana al conte, e cercandolo vo per ogni strada a ciò più d'una posta meco sconte. Lo giurai, se d'intenderlo t'aggrada, quando mi posi quest'elmo alla fronte, il qual, con tutte l'altr'arme ch'io porto, era dettor che già 1000 anni è morto. La spada sola manca alle buone arme, come è rubata fu non ti so dire, or che la porti il paladino Parme, e di qui vien che gli ha sì grande ardire. Ben penso se con lui posso accozzarme, fargli il mal tolto ormai restituire. Cercolo ancor che vendicar disio il famoso Agrican, genitor mio. Orlando a tradimento gli diè morte. Ben so che non potea farlo altrimenti. Il conte più non tacque e gridò forte, e tu e qualunque il dice se ne mente. Ma quel che cerchi t'è venuto in sorte. Io sono Orlando e uccisi il giustamente. E questa è quella spada che tu cerchi, che tua sarà se con virtù la merchi. Quantunque sia debitamente mia, tra noi per gentilezza si contenda. Né voglio in questa pugna che ella sia più tua che mia, ma a un arbore s'appenda. Levala tu liberamente via, s'avvien che tu m'uccida o che mi prenda. Così dicendo, Durindana prese e mezzo il campo a un arbuscel l'appese. Già l'un dall'altro è dipartito lunge quanto sarebbe un mezzo tratto d'arco. Già l'uno contro l'altro il destrier punge, né delle lente redine gli è parco. Già l'uno e l'altro di gran colpo aggiunge, dove per l'elmo la veduta avvarco. Parveno l'aste al rompersi di gelo, e in mille schegge andar volando al cielo. L'una e l'altra asta è forza che si spezzi, che non voglion piegarsi i cavalieri. I cavalier che tornano coi pezzi, che son restati appresso i calci interi, quelli che sempre fur nel ferro avezzi, or come duo villan per sdegno fieri, nel partiracque o termini de prati, fan crudel zuffa di duo pali armati. Non stanno l'aste a quattro colpi salde, e manca nel furor di quella pugna. Di qua e di là si fan lire più calde, né da ferirlo resta altro che pugna. Schiodano piastre e straccia maglie e falde, purché la man dove s'aggraffi giugna. Non desideri alcun perché più vaglia martel più grave o più dura tenaglia. Come può il Saracin ritrovar sesto di finir con suo onore il fiero invito? Pazzia sarebbe il perder tempo in questo, che nuoce al feritor più ch'al ferito. Andò alle strette l'uno e l'altro, e presto il re pagano Orlando ebbe ghermito. Lo stringe al petto e crede far le prove che sopra Anteo fe già il figliol di Giove. Lo piglia con molto impeto attraverso, quando lo spinge e quando a sé lo tira. E te è nella gran collera sì immerso, come resti la briglia poco mira. Sta in sé raccolto Orlando e ne va verso il suo vantaggio e alla vittoria aspira. Gli pon la cauta man sopra le ciglia del cavallo e caderne fa la briglia. Il Saracino ogni poter vi mette che lo soffoghi o dell'arcion lo svella. Negli urti il conte ha le ginocchia strette, né in questa parte vuol piegar né in quella. Per quel tirar che fa il pagan, con strette le cinge son d'abbandonar la sella. Orlando è in terra e appena se il conosce, chi piedi ha in staffa e stringe ancor le cosce. Con quel rumor ch'un sacco d'arme cade, risuona il conte come il campo tocca. Il destrier ca la testa in libertade, quello a chi tolto il freno era di bocca, non più mirando i boschi che le strade, con ruinoso corso si trabocca, spinto di qua e di là dal timor cieco, e Mandricardo se ne porta seco. Doralice, la principessa di Granata che era stata rapita da Mandricardo, corre dietro al suo caro rapitore che è stato rapito dal cavallo. Il re di Tartaria è rotolato in un fosso. Come potrà tornare a combattere con un cavallo senza morso? Doralice gli offre i finimenti del suo palafreno, ma Mandricardo non vuole accettare. In quel momento arriva a cavallo una vecchiaccia, con un vestito da fanciulletta tutto fiocchi e gale. È Gabrina, uno dei più scellerati personaggi che girino da quelle parti. Sarà al suo cavallo che Mandricardo porterà via briglie e morso. Ed ecco il cavallo che fugge a corsa pazza, con la strega in sella che strilla come una bertuccia. Doralice, che vede la sua guida uscir dal campo e torlesi d'appresso, e mal restarne senza si confida, dietro correndo il suo ronzin gli ha messo. Il pagan per orgoglio al destrier grida e con mani e con piedi il batte spesso. E come non sia bestia lo minaccia perché si fermi e tuttavia più il caccia. La bestia, che era spaventosa e poltra, senza guardarsi ai piedi, corre attraverso. Già corso aveva 3 miglia e seguiva oltre. Su un fosso a quel desir non era avverso, che senza aver nel fondo o letto o coltra riceve l'un e l'altro in sé riverso. Die mandricardo in terra, aspra percossa, né però si fiaccò, né si roppe ossa. Qui vi si ferma il corridore al fine, ma non si può guidar, che non ha freno. Il tartaro lo tien preso nel crine, e tutto è di furore e d'ira pieno. Pensa e non sa quel che di far destine. Pongli la briglia del mio palafreno, la donna gli dicea, che non è molto il mio feroce, ossia col freno sciolto. Al Saracin parea di scortesia la profferta accettar di Doralice, ma fren gli farà aver per altra via fortuna a suoi disii molto fautrice. Quivi Gabrina, scelerata, in via, che poi che di Zerbin fu traditrice, fuggia come la lupa che lontani ho da venire i cacciatori e i cani. Ella aveva ancora indosso la gonnella e quei medesimi giovenili ornati che fura la vezzosa damigella di Pinabel per lei vestir levati. Ed avea il palafreno anco di quella, dei buon del mondo e degli avvantaggiati. La vecchia sopra il tartaro trovosse, ch'ancor non s'era accorta che vi fosse. L'abito giovenil mosse la figlia di Stordilano e Mandricardo a riso, vedendola colei che rassomiglia a un babuino, a un bertuccione in viso. Disegna il Saracin, torle la briglia pel suo destriero, e riuscì l'avviso. Toltogli il morso, il palafren minaccia, gli grida, lo spaventa e in fuga il caccia. Quel fugge per la selva e seco porta la quasi morta vecchia di paura per valli e monti e per via dritta e torta, per fossi e per pendici all'avventura. Ma il parlar di costei sì non m'importa che io non debba d'Orlando aver più cura, ch'alla sua sella ciò che era di guasto tutto ben racconciò senza contrasto. Rimontò sul destriero e stè gran pezzo a riguardar che il Saracin tornasse. Non vedendo apparir, volse d'assezzo egli esser quel che a ritrovarlo andasse, ma come costumato e bene avvezzo, non prima il paladin quindi si trasse che con dolce parlar, grato e cortese, buona licenzia dagli amanti prese. Zerbin di quel partir molto si dolse, di tenerezza ne piangea Isabella. Volean ir seco, ma il conte non volse lor compagnia, benché era e buona e bella, e con questa ragion se ne disciolse, che a guerrier non è infamia sopra quella che quando cerchi un suo nemico prenda compagno che l'aiuti e che il difenda. Li pregò poi che quando il Saracino, prima che in lui si riscontrasse in loro, gli dicesser ch'Orlando avria vicino ancor 3 giorni per quel tenitoro, ma dopo che sarebbe il suo cammino verso le insegne dei bei gigli d'oro per esser con l'esercito di Carlo, a ciò volendol sappia onde chiamarlo. Quelli promiser farlo volentieri, e questa e ogni altra cosa al suo comando. Fero un cammin diverso i cavalieri, di qua Zerbino e di là il conte Orlando. Prima che pigli il conte altri sentieri, all'albor tolse e a sé ripose il brando. E dove meglio col pagan pensosse di potersi incontrare, il destrier mosse. Abbiamo trasmesso la 13ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.